l'anima libera, ti senti candida, lassù nel cielo volerai, anima libera, sempre mi illumina, nel buio dei pensieri, anima libera, solente magica, sei la speranza dentro me, anima libera, leggere unica, nel cosmo azzurro brillerai, e non lasciare che paure inutili nascondano la luce in te, io non ti scorderò. Thank you.